575 brioche farina d'Ungheria grammi 300 burro grammi 150 lievito di birra grammi 30 zucchero grammi 20 sale grammi 5 uova numero 6 stemperate il lievito di birra con acqua tiepida nella quarta parte della detta farina formatene un panino rotondo di giusta consistenza, fategli un taglio in croce e ponetelo a lievitare in luogo tiepido entro una cazzarolina con un velo di farina sotto. Alla farina che resta, fateci una buca in mezzo, poneteci lo zucchero, il sale e un uovo e con le dita assimilate insieme queste tre cose. Poi aggiungete il burro a pezzetti e incominciate a intridere la farina, prima servendovi della lama di un coltello e poi delle mani, per formare un pastone che porrete in una catinella per lavorarlo meglio. Unite a questo il panino lievitato quando sarà cresciuto del doppio e servendovi della mano per lavorarlo molto, aggiungete le altre uova una alla volta, poi la catinella ponetela in luogo tiepido e ben chiuso, e quando l'impasto sarà lievitato, disfatelo alquanto e con esso riempite a metà una ventina di stampini di latta rigati, che avanti avrete unti col burro liquido o lardo e spolverizzati con farina mista a zucchero a velo. Rimetteteli a lievitare, poi dorateli e cuoceteli al forno o al forno da campagna.